Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, siamo in diretta dallo SMAU, dal Salone della Tecnologia che anche quest'anno si tiene a Milano. Parleremo di Information Technology, ma non in senso stretto, in senso lato, cioè come può migliorare la benedetta o maledetta produttività delle nostre imprese. Per quello che riguarda il Salone SMAU, è il 49esimo Salone dell'Informatica, attesi oltre 50.000 visitatori e oltre 500 le novità tecnologiche che verranno presentate, sono già state presentate da tutti i big del settore: Apple, Oracle, IBM, Dell, Intel, Cisco, Vodafone e via così, Google. Dicevo, c'è uno studio del Politecnico di Milano che stima in circa 20 miliardi di euro di riduzione di costi e 5 miliardi di maggiori entrate per la pubblica amministrazione quello che sarebbe il beneficio della digitalizzazione dei processi. E oltre a questo c'è tutto un aspetto che riguarda, come anticipavo, la produttività, che non è solo frutto dell'accordo Confindustria, sindacati o datori di impresa, sindacati, ma è anche frutto delle innovazioni che si possono mettere all'interno dell'azienda e dove chiaramente l'information technology gioca un ruolo fondamentale. Questo per quello che riguarda uno dei temi del programma. Ancora invece sulla borsa, bene oggi gli spread italiani dopo l'asta, ne parleremo subito. Scesi anche sotto quota 320 punti, il MIBTER, quindi il FTSE MIB a Piazza Affari, guadagna l'1,30%, devo dire che è la borsa migliore oggi Milano assieme a Madrid, che guadagna l'1,80%, perché Parigi guadagna lo 0,40%, Francoforte lo 0,20% e le altre borse sono poco mosse. Il Dow Jones in questo momento perde lo 0,13%. L'euro sul dollaro è a quota 1,31,15. A Piazza Affari spicca il caso di A2A, che ha annunciato che distribuirà il dividendo, anche se non altissimo, ma ci sarà un dividendo. Il titolo guadagna il 7% secco in questo momento. Mediobanca più 5,20%, bene anche oggi tutti i bancari. Monte dei Paschi più 4%, Intesa San Paolo più 2,60%, Banco Popolare più 2,60%. Ancora Fiat più 3,30%, Autogrill più 3,60% e tra i titoli legati al ciclo economico citiamo Buzzi Unicem più 2,31%, Atlantia più 2,34%. C'è invece un calo significativo per Impregilo, il 4,5% di calo, ne parleremo. Qui ci sono dei dati che riguardano l'intero settore delle costruzioni. Chevron e Fidentiis puntano il dito contro la cessione a sconto di un'ulteriore quota del 3,7% di Accordo via Assen, ne abbiamo parlato anche ieri. Comunque vi torneremo quando faremo l'aggiornamento di borsa. Parleremo anche dei dati sul nostro export, perché al di là purtroppo della consueta, ahimè, rubrica sulla crisi e sugli sprechi del denaro pubblico, c'è un dato che ieri abbiamo anticipato, riguarda l'andamento delle esportazioni. Nel mese di agosto sono aumentate le importazioni, ma sono e hanno continuato a crescere anche le esportazioni, più 3,9%, con buoni dati sia nei paesi fuori dall'area euro, fuori dall'Europa, più 14%, sia nei paesi dell'area europea, più 3%. E visto che domani partirà a Verona un forum molto importante, il forum euroasiatico, e quindi con dentro anche Gazprom, il colosso russo del gas, Intesa San Paolo e vari esponenti di Cina, Bielorussia, Kazakistan e Ucraina, con tutto un insieme di relatori, beh, sarà anche l'occasione per fare il punto su quella che è un'area sicuramente ad altissimo tasso di crescita, perché mi riferisco non solo alla Cina o alla Russia, ma anche Bielorussia e Kazakistan. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo in tema di mercati, oro in rialzo a 1751 dollari in Asia, il petrolio dopo il dato sulle scorte americane è salito a 92 dollari al barile, ma comunque sempre su prezzi non allarmanti. C'è un dato invece importante che arriva dagli Stati Uniti, ossia le costruzioni di nuove case hanno segnato un balzo del 15% a settembre, ossia il livello più alto, con un tasso di 872.000, il livello più alto da 4 anni, dal luglio del 2008. E in forte rialzo anche i permessi all'edilizia negli Stati Uniti, più 11,5%. Brutta invece la trimestrale di Bank of America, mentre tutte le altre banche d'affari americane hanno registrato utili record in molti casi. E Bank of America ha visto l'utile crollare del 95% a 340 milioni di euro. C'è un motivo però, e il motivo è la class action che ha dovuto pagare 2 miliardi e 400 milioni di dollari legata all'acquisizione di Merrill Lynch. Passiamo all'Europa. In Gran Bretagna resta e continua in senso virtuoso l'effetto Olimpiadi, la disoccupazione è tornata sotto l'8%, è il livello più basso da oltre un anno, ma il numero degli occupati ha raggiunto la quota di 29.600.000, ossia il livello in assoluto più alto da quando esistono le serie storiche in Gran Bretagna, dal 1971. Nel frattempo dalla Grecia arrivano invece alcuni elementi di tensione, perché da un lato il Financial Times anticipa che sarebbe vicino l'accordo tra la Grecia e tutti i creditori internazionali che ha un pacchetto di misure deve essere sbloccato da quasi 14 miliardi di dollari e verrà sbloccato solo se vi sarà questo accordo. E il ministro delle finanze greco Yannis Stournaras ha detto: o arriveranno subito gli aiuti o moriremo asfissiati. Però anche i greci devono fare qualcosa in più, perché non è possibile scoprire, come abbiamo visto oggi, che il ministro della sanità greca licenzia il direttore generale del servizio sanitario nazionale e il suo vice dopo un controllo da parte degli ispettori. Insomma, si scopre che hanno sforato la spesa sanitaria in Grecia quest'anno di 1 miliardo di euro oltre quello previsto. È una cifra enorme se riferita alla Grecia. E lo sforamento non è dovuto a misure straordinarie, emergenze nazionali, è dovuto al fatto che ancora la sanità greca non si è dotata di un sistema elettronico per le prescrizioni mediche di registrazione, l'utilizzo dei farmaci generici. E fatica in sostanza a cambiare passo sta Grecia. Nel settore sanitario sono state scoperte moltissime truffe e azioni di corruzione. Allora l'invito è anche ai greci a capire che con tutte le resistenze tedesche che adesso si stanno in qualche modo sciogliendo, però non possono continuare a gestire il paese con l'andazzo allegro di questi anni, perché sennò alla fine verranno scaricati. L'Italia, dicevo dello spread, quindi la differenza tra quanto costa a noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania, è scesa a 320 punti, cioè il 3,2%. Siamo ai minimi dal 2 aprile. Il rendimento di un BTP italiano a 10 anni è sceso al 4,80% e anche qui siamo ai livelli più bassi dallo scorso marzo. In discesa anche lo spread tra titoli spagnoli e titoli tedeschi a 388 punti base. E oggi, intervenuta a Salvadanaio con Deborah Rosciani, il direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'Economia, Maria Cannata, ha detto di attendersi anche un'ulteriore diminuzione dello spread. Il quadro è molto più positivo e le prospettive di ulteriore miglioramento ci sono. Naturalmente questo non ci consente di darle per scontate, perché in questi ultimi anni abbiamo vissuto più volte momenti di sorprese negative che hanno un po' vanificato un processo di miglioramento che di tanto in tanto si affacciava. Quindi per adesso beneficiamo e gioiamo di questo trend positivo e teniamoci calmi, non facciamoci troppe illusioni. Comunque i margini di miglioramento senz'altro ci sono. Se non ci sono sorprese negative, il trend continuerà. E questo nel giorno in cui vi è stata la terza emissione di BTP Italia, oltre 5 miliardi, alla fine il dato è sui primi due giorni oltre 5 miliardi sottoscritti, e poi altri 2 miliardi in questa terza giornata. Anche qui il commento del direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'Economia, appunto Maria Cannata, sempre questa mattina a Salva Danaio. Siamo sicuramente più tranquilli perché diciamo la comunicazione della BCE di inizio settembre ha rassicurato moltissimo gli investitori, anche internazionali, e quindi noi da inizio settembre, anzi qualche segnale si era già visto anche un po' prima, stiamo vedendo tornare gli investitori anche stranieri sui nostri titoli ordinari. Poi il BTP Italia è una cosa invece più domestica, proprio pensata per i risparmiatori domestici, e diciamo completa un quadro estremamente positivo in questo momento. Vi aspettavate questo boom di sottoscrizioni per questa terza operazione, onestamente? Francamente no, cioè eravamo abbastanza fiduciosi che sarebbe andata meglio di quella di giugno, perché abbiamo curato alcuni dettagli che probabilmente a giugno hanno prodotto un risultato un po' meno brillante. Però non mi aspettavo un boom di questo genere. Ancora due notizie che arrivano dall'Italia. Il ministro Grilli, sull'ipotesi di uno stop dell'aumento dell'IVA di un punto percentuale che partirà dal 2013, ha detto mai dire mai. Per ora quello che siamo riusciti a fare, ha detto, è ridurlo di un punto, cioè doveva essere di 2 punti l'aumento dell'IVA, l'abbiamo aumentato di 1 punto solo. Per ora dobbiamo lavorare sulla legge di stabilità. Tra l'altro oggi ci sono dei dati che riguardano, da un lato, le operazioni sospette di riciclaggio trasmesse all'unità di informazione finanziaria, un aumento del 31% quello delle segnalazioni, ma c'è anche un dato che riguarda le imprese italiane che rischiano il collasso, soprattutto quelle dei servizi e soprattutto quelle del settore sanitario, perché ci sono 34 miliardi di euro di ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. E torna anche la nostra rubrica Ma cos'è questa crisi, con due notizie obiettivamente molto molto diverse. Una proviene dalla Gran Bretagna, l'altra da Milano, dal comune di Milano. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, pensate che in Inghilterra, cioè, la crisi non colpisce tutti nello stesso modo, anzi lo ricordiamo spesso, ci sono aree geografiche che vedono continuamente aumentare la loro ricchezza. E gli arabi miliardari disposti a acquistare una residenza permanente in Gran Bretagna per 1 milione di sterline sono aumentati, e praticamente, siccome questo si ottiene la residenza comprando e facendo un investimento di 1 milione di sterline in obbligazioni o in quote di imprese inglesi, beh, è in aumento intanto dalla primavera araba, ma anche visto che il petrolio continua a viaggiare su livelli molto alti. Oltre 400 persone hanno fatto domanda solo quest'anno. Pensate che nel 2011 erano 300, nel 2009, a crisi appena scoppiata, erano solo 200. E questa notizia fa abbastanza contrasto rispetto a quello che sto per leggervi, ossia il Comune di Milano si è accorto, e quindi veniamo alla situazione italiana, che per la prima volta negli ultimi 3 anni le famiglie che hanno fatto ricorso al Comune perché sono in difficoltà economica negli ultimi 5 mesi sono soprattutto italiane, milanese. A chiedere un contributo per una situazione di difficoltà sono state 710 famiglie italiane contro 580 famiglie straniere. Di solito la proporzione era radicalmente opposta. Crescono le domande per gli aiuti che il Comune può elargire, erano 900 nel 2010, 1500 lo scorso anno, quest'anno si sforerà tranquillamente la soglia dei 2000. Non ci sono solo i disoccupati, ci sono anche richieste di sostegno una tantum, fino al massimo di 5000 euro come contributo all'affitto o all'acquisto di una casa, e per le coppie in crisi ci dovrebbe essere una novità, perché il Comune introdurrà nei prossimi mesi il vincolo dell'iscrizione al registro delle unioni civili per poter partecipare al bando. Comunque, in totale il Comune di Milano ha liquidato nei primi 6 mesi 1 milione di euro, con un contributo medio per chi ha perso lavoro di 3.600 euro. Questa l'Italia reale, e adesso invece torniamo anche sull'Italia non irreale, purtroppo è reale anche quella, ma quella che utilizza il denaro pubblico per farsi bellamente i fatti suoi. Abbassare, non tregge più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tregge più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tregge più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, tregge più. Allora, molti ascoltatori in questi giorni ci hanno detto: ma perché non vi occupate anche dei privilegi delle forze armate italiane? L'abbiamo fatto ricordando anche gli stipendi del capo di Stato Maggiore e altre amenità, e c'è una notizia bellissima che adesso riprenderemo nei prossimi giorni, che riguardava tutti, diciamo, i benefit, ma chiamarli benefit è un po' tanto, è un po' eufemistico, di cui godono le massime cariche delle nostre forze armate, dai metri quadri dell'appartamento alle persone di allora addette. In realtà il motivo per cui ce ne occupiamo è quanto ricordavamo anche ieri, perché quando il PM di Napoli Woodcock manda l'avviso di garanzia nei confronti degli ufficiali della Guardia di Finanza, beh, si scopre che oltre la vicenda è quella del parlamentare del PDL Alfonso Papa. Le ipotesi vanno dal peculato al falso ideologico e falso commesso da pubblico ufficiale. Perché? In questa inchiesta, in cui risultano indagati, oltre che Papa, anche la moglie Tiziana Rodà, hanno ricevuto visite di garanzia vari ufficiali della Guardia di Finanza, nonché l'ex capo di Stato Maggiore delle Fiamme Gialle, Poletti. Sono indagati sottufficiali Federico Santolo e Andrea Grimaldi. Praticamente venivano dati uomini e automobili per scopi privati ed estranei. Pensate che le autovetture e i militari della Guardia di Finanza sono stati usati, secondo l'ipotesi di accusa, per accompagnare Papa e la sua famiglia alla Casa al Mare tra il 2005 e il 2008, per accompagnare la moglie del parlamentare che è avvocato a Roma o nei tribunali in cui andava per motivi di lavoro, come Napoli o Santa Maria Capua Vetere, per accompagnare i figli della coppia a scuola, in piscina, a giocare a calcetto, per accompagnare Ludmila Spornik, amica ucraina di Papa, a Ischia o in giro per Roma o all'aeroporto di Fiumicino. Ecco, gli ufficiali indagati avrebbero disposto indebitamente il servizio di accompagnamento senza che Papa ne avesse alcun titolo. Ora, al di là dell'utilizzo dello spreco di denaro pubblico per una cosa indegna, ma anche, io penso, all'onore e alla dignità di questi ufficiali della Guardia di Finanza obbligati a portare in giro l'amica ucraina di Papa piuttosto che i figli in piscina, ed è chiaro che qualche ufficiale li ha autorizzati. Vi preannuncio che d'ora in avanti cercheremo di mettere l'occhio anche su quello che capita nel mondo delle gerarchie militari, che non vuol dire l'ufficiale, il tenente o il maresciallo, ma vuol dire tutto il costo di una struttura dove i privilegi ogni tanto si annidano ad essere buoni. Ora però vorrei partire con qualcosa di più positivo, visto che siamo allo SMAU e visto che comunque qui si parla di investimenti in tecnologia e non di pratiche arcaiche come quelle che stiamo raccontando. 349-238-6666 per i vostri sms, se ne parla in un momento in cui però arrivano notizie anche pesanti su un colosso, il colosso mondiale, che si chiama Intel. Dicevo che arriva nel momento in cui, oltre che IBM, anche Intel ha chiuso, l'ha annunciato oggi, nel terzo trimestre con un utile netto in calo a 2 miliardi e 970 milioni di dollari contro i 3 miliardi e 500 dell'anno scorso. Fatturato in calo del 5%, la società ha anche annunciato, a mercati chiusi ieri, previsioni deludenti per il quarto trimestre dell'anno, stimando un margine lordo di circa il 57% inferiore e molto meno del 62% atteso dal mercato. Deludente anche ieri IBM, che ha comunicato una flessione dei ricavi del 5% e l'utile netto è sceso a 3,8 miliardi di dollari. Allora, intanto ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi l'amministratore delegato di Smao, Pierantonio Macola, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Barisoni. E grazie anche a Dario Bucci, che è responsabile, quindi è colui che gestisce Intel in Italia e in Svizzera. Buonasera, dottor Bucci. Buonasera, grazie. Ecco, partiamo da lei, che così stiamo sulla cronaca, poi arriviamo invece allo scenario con l'amministratore delegato dello Smao, Macola. Un calo vostro e un calo di IBM che il mercato ha voluto leggere come un elemento di continuità, cioè una difficoltà del settore dell'information technology. A che cosa è dovuto e le prospettive? Beh, parliamo di tempesta perfetta intorno al mondo del PC. Da una parte un sistema di crisi generalizzata economica, macroeconomica, che vede assommarsi a una lentezza del mercato consumer nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti, che era già presente da mesi, alla fine anche un rallentamento della Cina recente, dovuto a un rallentamento dell'economia cinese, rimbalzo ovviamente delle problematiche dei paesi occidentali, più un po' di perplessità che vengono dalle elezioni americane, che hanno fermato investimenti negli Stati Uniti specificatamente, sia nel pubblico che nella grande impresa, più alcuni aspetti invece di prodotto. Sicuramente smartphone e tablet stanno guidando le poche spese verso la tecnologia dei consumatori, e dall'altra parte abbiamo Windows 8 che è alle porte, e quindi i canali di retail tipicamente assottigliano gli inventari in attesa dei nuovi prodotti, per non avere le cosiddette brown banana, cioè le banane marrone da vendere, prodotti che sono già vecchi prima di cominciare. L'insieme di tutto ha fatto sì che il terzo trimestre non si è prospettato decisamente come ce lo aspettavamo all'inizio. L'aspetto positivo viene dal fatto che rispetto alla nostra previsione rivista di agosto siamo andati meglio poi nel finale, perché le ultime settimane di settembre hanno fatto vedere un po' di riordinato, soprattutto dai produttori del reparto asiatico, in previsione proprio del lancio di Windows 8. Quindi Windows 8 un minimo di contrazione, ma anche una grande opportunità. Ma se ho ben capito il suo ragionamento, quindi voi dite c'è stata una situazione, diciamo, di congiuntura, di tempesta perfetta, il che vuol dire che vi attendete poi un miglioramento nei prossimi trimestri? Beh, sicuramente è molto presto per vedere un miglioramento già dal prossimo trimestre, ma sicuramente le cose andranno meglio l'anno prossimo. Windows 8 ad esempio ha creato un minimo di contrazione, ma per noi è un'enorme opportunità. Ci consente di aggiungere la tecnologia touch, della risposta al tocco, agli ultrabook. Gli ultrabook diventano cosiddetti convertibili, quindi posso usarli sia come tablet che come PC tradizionale. In più entriamo nel mondo del tablet con un'offerta di tablet che però sono compatibili, essendo basati sulla nostra architettura, con tutto il software scritto precedentemente per il PC, e continua la nostra partita nel mondo della telefonia. Quindi la prospettiva è sicuramente migliorativa. Non molto possiamo fare sul panorama macroeconomico, questo è fuori discussione. Ecco, mi dica, ma quindi se non arriverà subito un'inversione di tendenza, vuol dire che chiuderete l'anno con utili in calo rispetto alle attese e dividendi pure? La prospettiva che abbiamo dato per il quarto trimestre fa sì che rispetto alle previsioni per l'inizio dell'anno saremo più bassi. Questo purtroppo è una realtà. Di quanto? E sono una stima di calo intorno al 10% rispetto a quello che era la prospettiva iniziale dell'anno. Quindi 10% in meno rispetto all'anno scorso? No, rispetto alla rispetto alla proiezione iniziale dell'anno. Noi contiamo comunque di avere un risultato migliore di quello dello scorso anno, perché veniamo comunque da due trimestri molto positivi, un trimestre in calo, che è quello che abbiamo appena chiuso, e il prossimo trimestre che ci vedrà più o meno allineati su questo in termini di risultato. Quindi il risultato sarà comunque migliore di quello dell'anno scorso. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, l'amministratore delegato dello SMAU, che vuol dire appunto 500 espositori, tutti grandi big dell'information technology, poco fa il numero uno di Intel ci ha spiegato le difficoltà del settore Intel, IBM, la tempesta perfetta, l'arrivo anche di una nuova applicazione come Windows 8 che fa ritardare alcuni acquisti. Detto ciò, mi sembra di poter dire che lo SMAU quest'anno abbia preso una piega molto legata, diciamo, alle imprese, e quindi quasi B2B, business to business, meno legata al consumatore finale in senso stretto, quello che viene per vedere qualcosa che si può portare a casa. È vero che le piccole e medie imprese italiane iniziano, complice anche la crisi, a rendersi conto che la produttività di processo, ma anche di prodotto, si aumenta non solo con nuovi accordi e trattative aziendali, ma anche innovando, e lì c'è un ruolo fondamentale dell'innovation technology? Sì, diciamo, io vedo proprio uno scenario che è tutto italiano e legato un po' a quella che si chiama la consumerizzazione, vale a dire abbiamo scoperto tutti a titolo personale cosa vuol dire mobilità, smartphone, tablet, app, ultrabook, e quindi abbiamo scoperto in qualche modo che queste tecnologie sono maturate, sono più semplici da usare. Quello che facciamo come SMAU è le portiamo all'attenzione di imprenditori e manager, quindi è vero che SMAU non è più un evento consumer, è dedicato alle imprese, è un roadshow, questa è la tappa più importante, però veniamo da 4 anni di casi di successo, abbiamo analizzato quasi 2000 casi di imprese che hanno saputo innovare grazie alle tecnologie digitali, e io vedo proprio un caso Italia che è molto diverso dal resto del mondo, in quanto abbinare la creatività e la dinamicità delle piccole e medie imprese italiane a questa tecnologia matura, che grazie al cloud costa anche meno, ecco, potrebbe dare all'Italia uno sviluppo in termini di mercato sconosciuto agli altri paesi. Ecco, si è molto parlato di cloud, della nuvola, che è una cosa che non esiste da quest'anno, però dove l'interesse inizialmente sembrava essere solo dei grandi gruppi per risparmiare sui costi fissi, anche qui mi è sembrato di cogliere un interesse più forte di piccole realtà, non solo start-up, ma anche piccole e medie imprese. Certamente l'Italia... Se spieghiamo anche come funziona il cloud, magari. Beh, il cloud è un sistema di archiviazione dati e potenza di calcolo, non in casa dell'azienda utente, ma in qualche modo remoto. Quindi questo consente di fatto anche a piccole e medie imprese di usare potenzialità, capacità di calcolo, che una volta erano di fatto precluse per un problema di costi. Quello che succede in Italia è che in realtà abbiamo a servire le piccole e medie imprese un ecosistema di piccoli partner, che sono a loro volta partner dei grandi vendor. Quindi in realtà, e sono migliaia e migliaia queste aziende ICT preposte a essere fiduciarie delle imprese utenti. Quindi il paradigma del cloud, a mano che si è affermato, è stato in Italia declinato anche verso queste piccole e medie imprese. L'esito finale sarà la possibilità per le imprese utenti di comprare prodotti e servizi al diciamo una modalità pay per service o a consumo che una volta era preclusa. Dell'agenda digitale del governo e delle agevolazioni sulle startup si è molto parlato questa mattina. Mi sembra di leggere però un po' di delusione, non tanto sull'agenda digitale che va benissimo così com'è, ma sulle risorse disponibili. Marco, quello che sostengo io è che pensare che l'agenda digitale sia un energy drink che diamo alle imprese e stanno bene, ecco, è una gran sciocchezza. Io credo che l'agenda digitale sia proprio invece un canovaccio, una bussola sulla quale dobbiamo far confluire o convertire gli interessi dei diversi attori. Come raccontavo, questa industria a fianco dei big player che abbiamo presenti in fiera per dei grandi soggetti, dei grandi attori, ma bisogna considerare anche i piccoli partner, che noi presentiamo a SMAU, questi village, perché è l'ecosistema del grande player internazionale con l'attore preposto a sviluppare la soluzione che poi funziona. Ecco, quindi l'agenda digitale, a mio avviso, deve recepire in questa fase i contributi di tutti. Un invito che ho fatto anche ai numeri uno di Cisco, Intel, Dell, HP, cambiate linguaggio, non si capisce mai una niente quando parlate di information technology, nel senso che avete un linguaggio, ma non ce l'ho con lei, Macola, un linguaggio che ricorda molto quello della finanza dagli anni 90 agli anni 2000, quando se la tirava moltissimo usando inglesismi a piè sospinto. In realtà si può spiegare tutto anche per far capire meglio poi a imprenditori, a manager e quant'altro di cosa stiamo parlando. Ci sono troppi inglesismi, troppe autoreferenzialità, sarà una mia deformazione professionale, ma mi interessava dirvi questo. In bocca al lupo per i 50.000 visitatori attesi, e grazie quindi all'amministratore delegato dello SMAU Pier Antonio Macola. Io andrei sul traffico, se già ci siamo, e poi inizierei a fare la borsa, che ha chiuso comunque Milano la migliore assieme a Madrid, ve lo confermo, più 1,56% Milano, più 2,37% Madrid. recupero nel finale anche per Parigi, più 0,80%, e Francoforte più 0,30%. L'America adesso è positiva di uno 0,06%. Bene l'andamento dello spread italiano sotto i 320 punti, bene l'asta di BTP. Abbiamo ascoltato proprio in apertura del programma quanto dichiarato questa mattina da Deborah Rosciani, Maria Cannata, direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'Economia. Chiaramente hanno festeggiato soprattutto i titoli bancari, e Mediobanca ha guadagnato il 5,40%, il Monte dei Paschi il 4,70%, il Banco Popolare il 3,20%, Intesa il 2,80%, Unicredito il 2,20%, la Pop Milano pure. Ma ci sono stati altri casi, nello specifico A2A più 7,60%, Fiat più 3,60%, Steamark Electronic anche, ma sul fronte opposto Impregilo meno 4%. E allora è borsa sia. Come sempre con Radio Cori, il Sole 24 Ore, e oggi nella persona... nel collega di Ceo Condina. Buonasera Ceo. Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Allora, partiamo da A2A, che ha fatto il botto oggi, qui mi sembra che il tema siano i dividendi, e andiamo per contrasto invece con Impregilo, che ha fatto il botto ma in senso negativo. Va bene, partiamo da Impregilo, che è stato il titolo peggiore, ha perso il 4,09%, in questo caso sono soprattutto presi i benefici, visto che il titolo negli ultimi giorni era corso molto sull'ipotesi che poi si è realizzata ieri sera durante il CDA della delibera della cessione del 19% delle autostrade sudamericane e Corodovias, una cessione che porterà oltre 700 milioni di euro nelle casse del gruppo e che potrebbe dare vita anche a un dividendo straordinario, quindi un'ipotesi che aveva fatto correre il mercato, che oggi ha tirato un attimo il freno su questa società. Per quanto riguarda invece A2A, il titolo veniva comunque da un periodo abbastanza difficile, un po' sull'altalena, ricordiamolo che resta comunque vicina ai minimi, oggi un rialzo del 7,6% sulla scia delle ipotesi del mercato su quello che sarà il dividendo del 2012. Si ipotizza che non sarà certamente un dividendo così elevato come negli anni scorsi, quando il payout addirittura aveva superato il 100%, quindi si attingeva alle riserve appunto per placare la fame di dividendi da parte dei comuni azionisti. Sarà un dividendo probabilmente con un payout nell'ordine del 40%, e quindi il mercato apprezza che parte delle risorse possano rimanere nel gruppo, sia per abbattere il dividendo sia per investire nei business appunto che necessitano di investimenti. Ecco, ogni tanto giustamente alcuni ascoltatori ci chiedono cos'è esattamente il dividendo. Il dividendo è la parte di utile, quindi di guadagno al netto delle tasse e di altri oneri, che un titolo, quotato o non, decide di distribuire ai suoi azionisti, ai suoi soci. Può anche non distribuirlo, può anche reinvestire tutti gli utili, una scelta, è la cosiddetta politica dei dividendi. Il mercato si muove molto, perché se si attende che tu distribuisca, poniamo, un euro per azione di dividendo, il titolo aumenterà di valore di un euro fino a che non raggiungerà il livello del dividendo atteso. Se però poi arriva una delusione perché l'azienda dice distribuiremo dividendo, quindi un po' di utile agli azionisti, ma non così tanto, magari la metà, a quel punto il titolo cala e si riporta sul nuovo livello di dividendo atteso. Andiamo avanti, Fiat e Autogrill. Per quanto riguarda Fiat, la società recupera terreno dopo che ieri, a seguito nell'ultima seduta, a seguito dei dati sulle immatricolazioni, era arretrata parecchio. Per quanto riguarda invece Autogrill, qui abbiamo il contratto che è stato rinnovato con l'aeroporto di Schiphol, un contratto che durerà dal 2013 al 2027 per le licenze di food and beverage, visto che nell'aeroporto olandese ci sono 75 punti vendita di Autogrill. Tutto sono ricavi pronosticati appunto per questi 15 anni di 2 miliardi di euro, e quindi ovviamente il mercato ha festeggiato. C'è da dire che il titolo era comunque sotto il faro degli investitori da diverso tempo, considerato che dal 25 luglio ha guadagnato il 30% e dal 4 settembre il 20%, quindi insomma c'era qualcuno Bravo Tondato Ross, comunque molti non lo ricordano, Autogrill fattura quasi la metà in dollari. E comunque per noi Autogrill vuol dire soprattutto ristorazione nelle autostrade e anche in treni, nelle stazioni e negli aeroporti, ma all'estero vuol dire soprattutto aeroporti, cioè ha un numero altissimo di concessioni degli aeroporti americani, ecco perché è fatturato in dollari, e anche di altri aeroporti europei. Chiuso con questo, abbiamo visto una Pirelli oggi restare debole, poi alla fine in realtà ha recuperato lo 0,60%, su Mediaset qualche realizzo, alla fine chiude invariata, le banche, qui l'archiviamo come effetto spread? Assolutamente sì, sono cresciute grazie al calo dello spread, addirittura sotto i 330 punti base. Oggi, come dicevi tu, è stata un po' la giornata delle borse periferiche, se tali si possono definire, dopo che Moody's ha sostanzialmente mandato una ventata di fiducia sulla capacità di rifinanziarsi della Spagna. Infatti non è un caso che i migliori listini in Europa siano Milano e Madrid. Ancora tra i titoli, volevo citare Enel più 1,76%, Tenaris più 1,60%, Finmeccanica più 1,40% e tra le banche chi cresce meno è UbiBanca più 1,26% e Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 1%. Eni ha guadagnato l'1%, ma Eni oggi fa notizia anche perché dal 1 novembre venderà gas ed elettricità a imprese e consumatori belgi con il marchio del cane a sei zampe. Ha acquistato infatti Distrigas nel 2008, che è il leader nel settore del gas per industria in Belgio, e anche Nuon Belgium, e quindi a novembre si fonderanno Distrigas e Nuon dentro Eni, e quindi Eni andrà a commercializzare gas per imprese e per clienti direttamente in Belgio. Andiamo invece ai migliori e peggiori della giornata. Cape Listed, vabbè, più 45%, ma risanamento più 15%, Arena più 14%, Fondiere Sai sullo risparmio più 11,70%, Dada più 8,23%, Elica realizzi oggi meno 6,20%, Antiche Pellettieri meno 6%, Zucchi meno 5,20%, Class Editori meno 5%. C'è qualche novità sul risanamento e su Arena? No, prima di tornare ce ne sono invece su Cape Live, che è stata la migliore. Sì. Qui arriva questo letteralmente schizzato dopo l'omologa del concordato preventivo per la società. Contemporaneamente verrà ricapitalizzata la partecipata SOTO, su cui fondamentalmente si vorrà puntare per gli sviluppi futuri. Insomma, il mercato scommette su un'inversione di rotta e su una nuova fase della società. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore. E come annunciato nella seconda ora del programma parleremo del nostro export. Oggi torniamo su temi molto classici di economia, ogni tanto respiriamo anche noi tra l'andamento dei mercati e gli scandali delle malversazioni di pubblico denaro. C'è un dato che si conferma buono anche ad agosto e soprattutto si conferma buono anche nei paesi europei, a dimostrazione che l'Italia continua a esportare dentro l'area euro oltre che fuori. Fuori è molto buono, più 14%. C'è un settore però che non si avvantaggia quasi mai dell'export, il settore è quello dell'edilizia, un settore sicuramente che ha beneficiato di una crescita importante nella prima parte degli anni 2000. Oggi però è arrivato un allarme lanciato dal presidente di Confindustria Squinzi nel corso della manifestazione Madexpo, un allarme sul settore, che è un settore obiettivamente in ginocchio. Pensate che nei primi 9 mesi dell'anno il fatturato dell'edilizia in Italia è calato del 25% rispetto ai primi 9 mesi del 2011, già belli negativi. Allora sentiamo Squinzi da Madexpo sul settore dell'edilizia. Sicuramente ci sono delle risorse che si possono utilizzare, si possono scovare e si possono utilizzare nella direzione giusta, ma quello che conta è la voglia di impegnarsi. Ci sono degli obiettivi che si possono raggiungere facilmente. Ho avuto occasione di visitare ad esempio negli Stati Uniti addirittura costruzioni, villaggi interi costruiti con consumo energetico zero, e questo è la direzione, questa è la direzione su cui noi dobbiamo andare. E il dato, al di là del Salone Madexpo, fa specie soprattutto perché, come ricordavamo in apertura, dall'America è arrivata una notizia, ossia le nuove case costruite hanno toccato i massimi da 4 anni, dal luglio del 2008, quindi da prima che iniziasse la crisi, con un boom del 15%. 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per occuparci di un tema classico di questo programma che è in onda da oltre 10 anni, e mi riferisco ai dati del nostro export. Perché lo dico? Perché travolti poi da tutto un insieme di altri elementi di attualità, spread, tenuta dell'euro, scandali, delle malversazioni e del cattivo uso, per essere buoni, del denaro pubblico, ogni tanto ci dimentichiamo di quello che sta capitando all'unica voce che permette al nostro sistema industriale, non dico di tenere, ma di attutire il colpo. La voce si chiama export. Il dato diffuso dall'Istat segnala un aumento sia delle importazioni, più 4,4%, ma anche dell'export, più 4% ad agosto, con indicazioni che arrivano dalle varie aree geografiche, che devo dire complessivamente date a me sembrano positive, ma di questo parleremo con i nostri ospiti. Allora il numero come sempre è 349-238-6666 per i vostri sms. Le destinazioni, intanto, gli Stati Uniti più 6% rispetto a un anno fa, i paesi dell'area OPEC, quindi i produttori di petrolio, più 29%, il Giappone più 18%, la Russia più 12%, la Turchia, altro grande paese emergente di cui poco parliamo in realtà, più 51%. Non bene invece in India, meno 5%, e in Cina meno 2,5%. Ma il totale dell'andamento del nostro export nei paesi fuori dell'Unione Europea ad agosto ha fatto un più 14% rispetto a un anno fa. Ed è buono anche il dato nei paesi europei, considerate le difficoltà dell'area euro: in Francia più 3,7%, in Gran Bretagna più 12%, in Polonia più 3,8%. Negativo invece l'andamento dell'export in Germania, meno 3,7%, e in Spagna meno 1,7%. Ma anche qui c'è il segno più 3% complessivamente nelle nostre esportazioni verso i paesi europei. E allora ne parliamo con il professor Fabio Sdogati, che insegna economia internazionale al Politecnico di Milano. Buonasera professore. Buonasera. E grazie anche, tra poco parleremo anche con chi domani farà partire un forum molto importante, forum euroasiatico, a Verona, 2 giorni organizzati anche con Intesa San Paolo e Gazprom Bank, i rapporti Italia-Russia, ma i rapporti anche Italia-Cina, Bielorussia e Kazakistan. Sdogati, lei da sempre è molto schietto e senza peli sulla lingua, e quindi ci capiamo. Tutto bene, cioè l'export è l'unica cosa di cui il nostro settore produttivo, manifattura o servizi, non deve preoccuparsi? Ma direi che non deve preoccuparsi è un'espressione un po' forte, però è assolutamente vero che l'export è ciò che ci tiene a galla. Noi dobbiamo continuare a ripetere sistematicamente, e so che lei lo fa molto bene, cerco di farlo anch'io, che ci sono solo 4 motori per far crescere le economie: i consumi delle famiglie, gli investimenti delle imprese, la spesa del governo e le esportazioni. Io credo che in un mondo che tutto sommato sta crescendo molto poco, anche laddove le cose vanno bene, il fatto che noi continuiamo ad esportare relativamente bene, sia cruciale. Io vengo adesso da una manifestazione che si chiama Made Expo, in cui ho visto imprese che sono lì, che ci credono, che lottano, che cominciano a pensare, o già da un po' di tempo pensano con serietà al mercato mondiale. E questa deve essere la nostra attenzione principale, il mercato mondiale. È da lì che vengono i fatturati, è da lì che vengono i profitti, è da lì che viene l'occupazione. Ecco, Made Expo che si è aperta oggi, prima sentivamo anche le dichiarazioni del presidente Confindustria Squinzi, noi siamo qui invece in diretta dallo SMAU. Devo dire che la sensazione è stata, per quello che riguarda poi l'utilizzo dell'information technology, non tanto della necessità di creare una Silicon Valley all'italiana, che diventerebbe forse una cattedra nel deserto, ma di irradiare tutti i vari distretti industriali, sono almeno 51 distretti industriali in Italia, di information technology, di innovazione di processo e di prodotto. Da questo punto di vista, però, Sdogati, resta il tema delicatissimo delle reti lunghe. Mi spiego, le esportazioni adesso sì, vanno anche in Europa, ma vanno soprattutto, come abbiamo visto dai dati, in paesi molto distanti. Qui c'è una difficoltà nel mantenere i costi delle reti lunghe. A che punto siamo sulle cosiddette aggregazioni nei distretti? Ma guardi, io sono uno che ha letto libri di economia, quindi la mia cultura è libresca, e nei libri di economia c'è scritto che le imprese massimizzano i propri profitti, non quelli altrui. Quindi a me l'idea di rete, l'idea di distretto, l'idea di aggregazione francamente sembra molto molto debole. Io l'ho visto con i produttori di scarpe marchigiani, le marche sono la terra da cui provengo, andavano in 2, 3, 4, 5 a vedere la Serbia, l'Albania ed altri paesi, poi uno decideva di andare e andava da solo. Quindi io credo che ci sia un fraintendimento importante sul concetto di rete e di aggregazione. La rete è il sistema di supporto che le imprese danno le une alle altre. La rete è il supporto di conoscenza, è il supporto di informazione. La rete non è il supporto organizzativo, perché nessuna impresa aiuta nessun'altra a organizzarsi. Questo è un ruolo che non deve avere l'impresa, deve avere il governo. È il governo che deve avere questo tipo di iniziative. Voglio dire, io non ho mai sentito parlare di un sistema Norvegia o di un sistema Stati Uniti o di un sistema Madagascar, sento solo parlare di sistema Italia. Perché? Perché non c'è un governo che abbia una politica economica per le imprese, voglio dire, ce l'ha ovviamente a livello macro e lo vediamo tutti molto bene, ma per le imprese non c'è da decenni. Quindi questo è il problema drammatico, tentare di sostituirla problematicissimo. Sdogati, c'è però un tema, io ho capito cosa lei dice, l'aggregazione ha un senso per creare, diciamo, l'ambiente, l'humus in cui si muove l'impresa, non per fare poi la parte operativa e di guadagno, esatto. Lì ogni impresa si muove da sola, però resta un tema delle dimensioni, cioè i casi che lei citava, Albania, Serbia, Est Europa, erano ancora destinazioni raggiungibili dal singolo imprenditore, i costi fissi per andare sui mercati che crescono sono molto più alti adesso. Lei non ritiene che poi il nostro export possa a lungo andare a segnare il passo su questo? Ma guardi, ci sono due modi di rispondere a questa sua osservazione che apprezzo. Il primo è questo è il problema, punto. Quindi si deve affrontare, punto e basta. L'altro è che noi abbiamo fatto a Politecnico una giornata sull'India il 27 settembre, avevamo 57 imprese presenti, di cui 50 per la prima volta si avvicinavano a Politecnico, e non erano imprese grandi o grandissime, tutt'altro, erano imprese cosiddette piccole e medie. Voglio dire, c'è un pezzo di autobiografia che mi piace spesso raccontare. Quando io mi trasferì da Roma a Milano decenni fa, il treno migliore impiegava 7 ore e 20. Oggi con 7 ore e 20 si arriva a Nuova Delhi. Quindi io conosco imprese di 15 persone che fanno dei bei affari, dei begli affari in India o in Vietnam, o cominciano a farlo in Sud America. Io credo che sia un problema essenzialmente culturale. Noi siamo cresciuti, non so bene per responsabilità di chi, e forse la responsabilità non è più importante a questo punto. Noi siamo cresciuti nell'ideologia del piccolo e bello. Siamo in questa ideologia del chilometro zero adesso, che trovo assurda, completamente assurda, e però continuiamo a cantare e a suonare questa canzone che è tutta centrata sul piccolo, sul territorio, sul radicamento. Il mondo va da un'altra parte. Insomma, l'altro giorno, il 9 del mese, il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato i suoi dati di previsione per il 2012-2013, fanno paura. Tra i paesi ad alto reddito pro capite, quello che va meglio è gli Stati Uniti, che crescerà il 2%, e quando la Cina cresce del 7,75%, l'India cresce del 5%, il Vietnam del 6,5%, l'Indonesia del 7%. Ecco, questo è questo cambiamento radicale nel panorama della competitività internazionale che noi dobbiamo cogliere, e sono convinto che le capacità le abbiamo, a condizione che dimentichiamo questa cultura localistica. Allora, anche di questo vorrei parlare con un suo collega che è il professor Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Economica Eurasia. Domani, ripeto, a Verona partirà questo forum, interverranno il ministro Passera, il presidente di Confindustria Squinzi, Romano Prodi e tanti altri relatori, il presidente dell'ICE Riccardo Monti. Buonasera, professor Fallico. Buonasera. Le chiedo un minuto di pazienza perché abbiamo il traffico, vorrei anche un commento a quanto appena ricordato Sdogati sulle esportazioni, e però poi anche con Sdogati vorrei capire, perché noi raccontiamo questa cosa sempre come se ci fosse della magia dietro, no? Incredibilmente le imprese italiane continuano a aumentare le loro esportazioni, non c'è nessuna magia, allora vorrei capire grazie a che cosa, nonostante tutto, nonostante le lungaggini burocratiche italiane, i mancati pagamenti della pubblica amministrazione, la tassazione che c'è in questo paese, come mai nonostante tutto si continua a comprare Made in Italy e se ne compri sempre di più come dato percentuale? Allora, professor Fallico, visto che lei rappresenta anche la presenza, mi scusi il gioco di parole, di Banca Intesa in Russia, dicevamo dei dati dell'export verso la Russia, un più del 12% anche nel 2000, anche ad agosto del 2012. L'anno scorso il nostro export e gli scambi commerciali con la Russia sono cresciuti del 21%, 27 miliardi di euro, e siamo il quarto paese per volume complessivo negli interscambi con la Russia. Si ritrova nella descrizione che ha fatto prima Sdogati, e se c'è qualche elemento critico invece in più che lei vede. Ma io vedo che appunto le nostre aziende talvolta sono troppo piccole, sottodimensionate, sottopatrimonializzate per poter competere a livello internazionale. Nonostante tutto ciò, però ci sono delle piccole aziende che sono delle multinazionali a livello di invenzioni, a livello di tecnologia, per cui nel mondo ancora trovano molto spazio. Ma sa che le imprese dicono che in realtà quello che manca, oltre che un sistema diciamo di governo e Stato che le aiuti, è anche un sistema bancario che proprio quando sono piccole o medie le aiuti nei paesi più distanti, dove voi magari avete già una presenza sul territorio, quindi avete competenze e conoscenze. Guardi, questa lamentela in genere è molto retorica. Perché io questo discorso me lo sento dire da quando, per esempio, in Russia, ancora l'Unione Sovietica, effettivamente non c'era il sistema bancario, né quello locale, che era dominato da una Gosbank, da 3-4 banche di settore, e anche per l'assenza di tutte le banche straniere, delle banche commerciali. Oggi, nel 2012, abbiamo una struttura bancaria molto efficiente, parlo anche della struttura bancaria italiana in Russia. I nostri imprenditori purtroppo raccontano sempre le stesse cose, non sanno che per esempio l'Unicredit ha più di 100 filiali in Russia, non sanno che Banca Intesa in Russia ha lo stesso numero di filiali ed è una delle anzi la prima banca straniera per gli investimenti tra Russia e l'Italia, e l'Italia e la Russia, e quindi continuano sempre a dire le stesse cose. Purtroppo probabilmente manchiamo noi, non siamo molto efficienti nella comunicazione, probabilmente, ma forse anche c'è questa tendenza a cercare di fare da soli e non, il sistema nostro italiano che è presente in questi paesi si accorge dei tentativi delle aziende a posteriori, cioè quando questi tentativi abortiscono, e quindi si ripetono sempre gli stessi stereotipi che non servono a nulla. Dopo, nella concretezza, lei trova in alcuni paesi anche l'eccellenza di una struttura, diciamo, del cosiddetto sistema Italia, che l'interlocutore precedente non ama. Voglio dire, non ama come denominazione, ma che a me invece piace. Sdogati, la domanda che facevo all'inizio, prima dell'interruzione, ossia, ma qual è il segreto? Perché sennò sembra sempre che vi sia una specie di miracolo di stellone italiano per cui incredibilmente l'export continua ad andare bene non solo in Europa ma anche e soprattutto fuori dall'Europa. Ma guardi, sono d'accordo, non è certamente un miracolo, è competenza, è qualificazione, è capacità di innovare, che ovviamente non è di tutte le imprese. Cioè, in questo processo il grosso delle imprese non ce la farà, e non è questione di essere antinazionali, no? È una questione banale, le imprese scompaiono. Perché? Perché non tutte hanno lo stesso imprenditore, perché non tutte hanno lo stesso capo del personale, perché non tutte capiscono che bisogna passare da certe produzioni a certe altre, e quindi questo è un fatto molto naturale, voglio dire. A me va bene che emergano delle imprese che crescono, ma mica necessariamente a livelli di centinaia di migliaia di dipendenti, voglio dire, ma che crescono enfatizzando, premiando le capacità dell'imprenditore, del management, della forza lavoro, con salari migliori, con condizioni di lavoro sempre migliori. Questo è un fatto molto naturale, vuol dire, sono degli studi ormai di qualità indiscutibile e affermati, i quali sostengono che le imprese che si internazionalizzano sono le imprese in cui la produttività cresce di più. No? Cioè, tu sei inchiodato qui dentro il tuo paese, che sia Italia, che sia Francia, che sia quel che sia, io guardo come varia la tua produttività nel tempo e mi accorgo che varia più lentamente, ammesso che vari, di quanto non varia la produttività di imprese internazionalizzate. Questo è un fatto strepitoso. Quindi lei dice non è che esportano perché sono più produttive, ma diventano più produttive in quanto esportano? Diventano più produttive in quanto esportano. Questo, diciamo che sono vere tutte e due le cose, per carità, però il fatto dominante è questo. Questa è ricerca fatta nelle scuole migliori del mondo, nei dipartimenti di economia migliori del mondo. Noi vediamo che esiste questo fenomeno. Perché? Perché evidentemente l'internazionalizzazione premia, scatena, non so come dire, esalta le capacità dell'imprenditore, le competenze del suo management, le competenze della sua forza lavoro, perché la globalizzazione ti pone delle sfide, ed è ovvio che non tutti possono essere all'altezza di quelle sfide. Tentare di salvare delle imprese, parliamo di Banca Intesa o di qualunque altra banca, no? Allora, Banca Intesa ha fatto una ricerca dalla quale viene fuori che tra le imprese non internazionalizzate 7 su 10 stanno soffrendo in un senso adesso generico, non c'è bisogno di specificare troppo, ma nel senso che quando si rivolgono alla banca, la banca si allarma un pochino e ci deve riflettere sopra. Tra le imprese internazionalizzate solo 3 su 10 stanno soffrendo in questo senso. Quindi questo è un processo di selezione naturale, un processo quasi darwiniano, non ha nulla del miracoloso. C'è il fatto che appunto l'internazionalizzazione esalta le capacità, le competenze. Certo. Chi si chiude nel proprio piccolino è destinato a fallire. Sì, questo è un tema che ogni tanto passa sotto traccia, cioè esportare fa bene non solo ai fatturati, mettiamolo così, all'utile aziendale, ma anche e soprattutto perché ti tiene collegato a quelle che sono le sfide internazionali. Di solo mercato interno si muore. Devo dire che in questo momento, però, con una battuta, è morto il mercato interno, perché se continuiamo a tassare e a non avere politiche per lo sviluppo, la domanda interna si ridurrà al lumicino. Grazie comunque al professor Fabio Sdogati e al professor Antonio Fallico. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.